Politiluene su Pampas. E chi è? Ehi, ciao Daniel! E dove tu? E allora? Tu vedi proscendi che non io non sono niente di patatini? Eia! Eia, capo! Sono entrato poco fa da lavoro! Uffa, fa, fa, fa! Mi sono convinto un paio di birretti! Ma faccio cappuccio! Ebbene Daniel, onde sei? Ora sono andato a finire una cosa, già ti ho sentito, hai fatto bene, pensavo si stava dando un microfono, lo stavo chiudendo apposta. Capo, cosa hai fatto? Si era risaldato due fili e li stavo finendo di saldare, caragava, e adesso è lì. Ho fatto bene, vado. Io faccio un saldatore che così così uno buono, ne ho. L'altro giorno l'ho usato. L'ho usato l'altro giorno e no, non andava bene. Ne ho usato un altro e ancora andava un pochettino meglio, ma chissà cosa l'hai pigliato a Brospera. Poi è uno a penna, sottile sottile. Da là c'è un burro, ya! So che tutto quanto vabbè da. Funzionano bene quelli. Uno mi abbia pigliato in pucio d'orra. Mi abbia pigliato. Poi così. C'erano 5-6 anni, c'erano pure 7. Adesso non sono andato a usarlo l'altro giorno, ho raffigato la punta, non è andato bene, ho usato altro per farmi PL, capito? Ce l'ho da tanto tempo, può appena appena limare la punta magari. Allora che è sporca? È rugginosa, buonanotte. Buco girreccino, andate. Che schifo, ora perché ti sei tutta la puzza. Sì, se no vedrò dietro sopra. Beh, se lo volevi mettere, sì. Quanto lo devo buoni? Tanto lo dico. Il culo me lo devo zacca. E chi è questo? E chi è questo di signor Sassari, avanti? Che dito l'hai? Io già lo sento. Ma chi è Luca? Non vedi che sono io col portatile, quasi gli intendi? Ammazza tu! Adesso sì, già sei tu già! Ti ho fregato, zio! Ma quando ti arrivo col portatile? A 9! È vero, e suga, siamo talmente vicini che fino a 9 arrivi col portatile! Vabbè, aspetta, fai un altro passaggio, aspetta. No, così mi arrivi a 4, quasi 5, sì. No, però punti regalati. E allora, così ti arrivo a fondo scala? 9.30, sì. E si sente anche lo sacco. Ma si intendi, cicchicciac? 60 è quello. E chi te l'ha detto? Lo sacco, è inconfondibile. L'80, non è 60. Vabbè, lì c'è, muoio due sempre. Ehi, anni 80, l'ho collegato all'Intec, l'ho collegato, andiamo bene. Non all'Intec, all'87. Ehi, anda per vera. Praticamente da giù busto di batteri l'ho collegato a quello là, siccome mi piaceva l'ho messo lui una volta da collegarlo. L'hai fatto da a 4 pin, l'hai fatto eia gara e capito mai già ho compreso, già mi butta a meno. Stai calmo. Oi, stai calmo. Vabbè, mi sono dovuto appentare a fare la 4 pin. Oh, oggi ti ho visto il Galghero con Daniele ieri. Galghero? Cioè non mi ricordo cosa stavo portando. Un paio di bombole ci avvisi. No, in via Napoli. Poi già in via Alghero. Bando, no, da riscaldamandro. Oh, io una gera tu. Non sai come ti richiama l'Alghero, riscaldamandro li chiama. Sono guasci, lo metti l'usore che fa niente. Oi. Andra bene vera. E poi per il resto tu. Tutto bene, oh Daniele, tutto bene. Cosa? Ma finalmente abbiamo lavorato. Ti devo dare una notizia. Cosa è il cannabisù? Un negozio che va in Chivi in via Napoli, che ora sono rompiballe mi, con le bombole. E beh, cosa ci doccio, beh? L'ho immaginato. Non capivo dove fosse, perché non mi risultava che ci fosse una rivendita in via Napoli. Quello lo so, l'ho intuito. Vicino a Rodabacchino, attacca da Rodabacchino, non deve l'assicuratore Marco di Catena prima che andavo io, poi non lo c'è andato lì in via Canale, se non glielo più fatto per cosa troppo caro. Sto andando da un altro. E lì, dove c'è l'assicurazione una volta, HDMI. Ho capito. Guarda male, ho capito, lo so. Anche lui ha smesso e adesso è si è andato ad altro. L'affare porta pizza e c'è finita le bombole. Che glielo conosce oggi addosso. Ho capito che stai dicendo. Ah, carità. Io non vedo più da Sassai, no, mi subitino. Che lo conosci tu. Ha voglia. Va bene. E di chi è quella rivendita? Non è sua, no? No! Si chiama Massimo e Simonetta, si chiama. Non vorrei che sia qualche parente suo, non lo so. Come può essere? Sì. Ma di contratto in Chivi, in via Napoli, al numero 15. Uscendo di una bombola. Io sono fatto da sopra, ho guasto via una piedi. E tu ne hai ancora faranno in nera. Attenanti da terra di lì. Adesso si fa le ossa anche pure lui. Già si riguarda le ossa, ma non è, cioè deve avere anni di esperienza. Poi sono sicuro che si rompe le palle alla fin fine, perché ancora non assaggia il vero travaglio. Quando assaggia bene si stufa. Guarda che pochi reggono a fare quel tipo di lavoro, anche in Chivi bisogna travagliare vero, bisogna travagliare, soprattutto dove siamo noi. Cazzo, se ti capisce da noi, come ti è capitato tantissime volte a me, cioè l'ho fatto tante volte, 10 consegne, che non comprendi nulla, ti voglio vedere, a te travagliente. Pesante, Antu, pesante. Veda lui, è sua libera decisione. Cava. Cappa. Sì, è un lavoro che ti sballa, cioè se non sei abituato di scegli decimi puro. Pochi ragazzi ci durano lì. Cioè, può darsi che lui magari ce la faccia, niente di strano. Allora, se lo pagano, può darsi che lui ce la faccia. Allora, esce dalla pancetta. E allora? Già la conosco la bizzina, un'ex amica di Sara, della mia compagna. Già la conosco anch'io, mi ricordo come si chiama, però. Gava, gente giovane, come sa che c'è tu e Simone, gli unici giovani. No, c'è anche Valerio giovane così. Quello che prima era di Pistolo c'è per Danieda. Cioè, che prima loro, poi ha preso tutte le remini di Pistolo, ci sono anche i giovani, c'è anche quello che è entrato adesso, c'è già, capito? Che Bizzarotti si è ritirato e ha cioè, tutti i giovanotti già portando le bombole. Non è l'unico giovane. Perché io vedo sempre le stesse facce in giro, dai. Almeno qua in zona, poi non so magari altre parti. Perché di solito poi gli altri che è vero sono tutti in serie un po' di età, capito? Chiappa. Sì. Sì, è così, No, ma quelli di cosa sono tutti giovani, li ha voluti lui apposta, li ha voluti perché se non li prendi da giovani poi è un casino e pochi ce la fanno a reggere quel ritmo. E chi si, già lo sai che in chi si trova gli avvocati burro, Lì si lavora forte, non è a giocare, no. Dove sono loro? Quelli che hanno preso tutti i clienti di Pistorozzi. Lì sono a livelli alti, lavorando. Così è pesante. Poi a piedi, poi dipende anche dai piani che ti devi fare, dalla bombola, se è quella piccola o quella grande. Altro che palestra è. E ti va abituato, se sei abituato, pure a conoscere via, è un gioco. Ci vuole gente portata per fare quello. Tu l'avrei cimata. Sì, muova tu. Magari piano piano. A prendere, diciamo, il ritmo e iniziare a fare le ossa, poi chi lo sa. Sì, se ti avrei addosso il dente ho già per andato, non ti preoccupare. Ah, quello è poco ma sicuro, a questo cazzo di fare le scale con la lingua in terra, cazzo. Capo, guarda, chi paga bene a Sassari è Valerio. Quelli che hanno preso tutte le rivendite di Pistorozzi. Chi paga bene, va, l'ingresso. Chi paga bene sono loro e qualcun altro ce n'è che paga bene, dallo stipendio proprio. Però Valerio ti paga bene, però ti deve un culo. Vabbè. Oh, meglio. Meglio Antu. Almeno così c'è lavoro. Che se no poi è un macello, Se si ferma poi con la storia del gas di città, poi è un casino. Gaffa. Sì. È così, è un casino, cioè, cavolo, se è 9.50, se lo sai, Daniel. Se 9.40, picchi 9.50, la mazza che te ne varia. Stanno scaldando i motori qua i motori stanno scaldando, stanno aumentando qua il segnale, com'è la storia? No, sei 9.40, picchi 9.50, vabbè, perché io quello lì lo prendo in pieno, lo ti prendo a te. Già funge tutto qua, con un watt, hai visto? Non so pensare se metti 100 watt. Non oso solo pensare qua. Non c'è più smitter così, a fondo scala ti arrivo. Sì, minimo sei quasi 9,60 se metti 100 watt. Ma qualcosa non si può alzare un po' di più. Guarda adesso, ora la cipolla, che più non posso alzare. La cosa? Guarda quanto ti arriva adesso. 9,50. Tondi? Quasi tondi. Guarda adesso, se altro si mangia la radio, capito? Lo so, c'è dei picchi allucinanti, c'hai. Cappa. E io picchi ne ho. Aspetta, lo dico io, prova a fare un passaggio, aspetta. 1, 2, 3, prova. Sì. prova radio, com'è? No, ma tu picchi non la insegna qua, sei stabile. Già. Perché anche tu ti fermi sul D del DB dopo il 30. Vai giù. Oi. Va bene. Aspetta tu. Guarda adesso, la radio si è mangiata un po'. Assolutamente no, non si rimane a radio qui sono. Ma io che non fatta che un lineare. Già c'è la tuffetta, sono il cacchio faccio arrivarti così. Se vuoi ci vedi anche pure io la stufa. Guarda, la stufa staccata. E non cambia più di tanto, Come no, aspetta. Adesso sta andando veramente con un watt, solamente il radio c'è qua adesso. C'è 9,20. Però per la radio migliore devo metterla così. Guarda, adesso sono 3 watt, 4 watt, boh, non lo so. Se 9,20 a picchi 9,40, sì. Accere il radio a tu, accere. Quella voglia, se vuoi te lo posso sentire pure io me. Tu ne stai andando a un 20 almeno. No, di meno. A 10 a picchi di 20. Va bene. Che? Io sono. Hai capito che ti ho detto? No, Anto, fai il passaggio. Hai capito? Ehi, Anto. Cava. Non entra nessuno, vabbè che ancora è presto. Capo, non devo ancora memorizzare il tuo numero di telefono, che... Io ci ho vedi, no, ga. E Pan Porco non si è più fatto sentire. No, non ho più sentito, no, Dani. Devo chiamarla a sentire che sarà. Che fine l'ha fatta invece poi. Tra Riffi e Ruffion non ce l'ho fatta. Ha detto vabbè, già l'ho sentito in radio invece. Vabbè che. Io non l'ho sentito, sono entrato ieri dopo tanto. Capra Dani. Questa cosa. Ti mando un video. E quelli porno? Ma non sa porno! Ehi, vai a vedere cos'è, vai! Ma dove l'hai mandato? Ah, qua l'hai mandato? Che lo mandi su WhatsApp? Questo è... Guardatelo! E poi vedi! E non so segna! Ma vai da dirlo! Ma non lo vedo bene, aspetta, forse. Apri! Già funge, Antu! La mazza che ne è varia! A chi? Già hai compreso a chi? No, non sento nessuno io! No, hai compreso nulla, no! Hai visto il video? Eia! Qua Bubi! Vedi il gatto Fufi! Che è il gatto Fufi! Ma tra poco per farmi la doccia, che? Cosa tu, la doccia? Sì, tra un po' scendo a farmi la doccia, scendo. Va bene, per Paolo tutto a posto. Che casa sua, è tutto a posto. Gava, hai detto se vuoi del casino e no, Gava. Che non ci riesco. Capa, te la metti che hanno modulato da atti dozzi. Ci voleva Amplifon qua intenditi. Va via che sono rotto di cobro, va via. Vabbè. Già riuscivo, meno male a tirarti fuori. Che poi quando sono arrivato a correrlo ti tendia più, che eri tra il 7 e l'8, vedi. Addirittura così basso. Antonio, arrivavi, Rai basso, il segnale andava bene, dai, per le condizioni in cui eri. È che la radio era bassa. Poi ti sei attrezzato. Già non credo già che mi sono attrezzato. Se mi vogliamo intendi, taggio posso ricostare, no? È la batterista del Beatles. Cara gara, cara gara. Va bene, va bene. Guarda un po' mi se ti piace, aspetta. Affannato, cacchio. Hai tanto. Guarda un po'. Hola. Quella ce l'avevo io, se la bonghe non che chi sopra la chino gira come una marroccola gira. Sta sette. La tocca se. È più vecchio del tuo, Non tocca se. Facciamo il scambio con il mio 87 e ti do più la differenza, qualche differenza. No, no. Monello. Allora, pensai che era Romeo, mi vola basso. Ma questo non è l'87, a tu. Che cosa è? Questa è un'altra radio. Ah, il K, cos'è la 48? No, non è 48 questo. Guarda com'è gira, guarda. 48 è. Ulla. Chi c'è Romeo? Non è il tuo. E allora cosa è? Un'altra radio. Cosa però? Questo è il 3009. Ho capito. L'87 un dia. Qua sotto al 3009. Che è avanti? C'è qualcuno che vuole entrare. Da poco fa che lo sento, ma stava innescando. Cappa, è andato da via, fondo scala. No, a fondo scala, già era buono come segnale, però stava innescando e non si capiva nulla. Cappa. Ah, vero. Sai che tra un po' sarà propaganda. Avanti, intendiamo solo noi, propaganda non ha nessun luogo. Due volte l'ho sentita e boh. Ehi, ancora è presto, nel periodo. Abbi fede, figliolo. Mi pare che stare sarrando completamente lo zero. Sari, vai, il coronavirus. Non sai che lo coronavirus va inquinando. C'ha inquinato l'ettore. Scappa. Sicuramente. Cara. Aspetta un secondo, altro che... Vado a farmi una boccata d'ossigeno. Ma che trudiato hai? Ah, ma che sono crescito da vedo dopo quella davanti. Ah, così è. Vabbè, pure io va, mi faccio una doccia, magari ci sentiamo dopo, ok? Ehi, Anto, dai, prova a fare un altro passaggio che sto controllando una cosa. 1, 2, 3, prova. Che bello! No, niente. Già fugge tutto, dai, tutto l'orologio. Ehi, Antoine, dai, ci ascoltiamo dopo se coincide, dai, tanto io sono qua, non c'è problema. Ok, dai, ci sentiamo, cappa! E chi è? Avanti. Sei il tuo gatto, mi pare drudiente. Ma chi è tu? No, non lo so, no, Daniel. Ma non sei da nessuno io. Io già ho sentito già. Era come alternata era. Va bene. Dai, ci sentiamo dopo, Anto. Buon proseguimento e buon tutto, dai. Ciao. Chi è? nasina, la voce, ma già va bene. Come nasina? Qua invece va un po' meglio. Adesso sì. Perché ho toccato una cosa, capito? E quindi era nasina, sì. Beh, si sente parlare. Questo è quello che come quello che hai tu, però i tasti che gli ha diversi, non so se l'hai mai visto. Daniel. Aspetta tu. Gappa. Ecchi. Eccomi qua. Capito, Daniel? Questo è l'87, però i tasti ce li ha diversi, ce li ha la prima serie. Gava. È importante il contenuto. Gappa, qui c'è proprio marchiato, mi sembra che dell'anno 80 è proprio. Questo qua. Hai visto la bomba, questo esce bene, esce con il capo a tavolo. Bene va il segnale, sì. Si conferma, forte e chiaro quanto. Va bene. A fondo scala, Sempre 9.30, sì. Oh, non ci va di più quel carbo di cosa, Oh, c'ho un'apertura anche all'Italia che è una cosa spaventosa. Già va bene, ogni tanto perdi la portante però, Perché ho schiacciato male. Ecco, devo avvicinarlo così. Vedi, è colpa mia, Perché siccome stavo facendo una roba, e quindi perdevo la portante, sì. Ogni tanto sgancia. Gaba. L'MB più 4, Anda per veda. Già va bene. Anche questa è una gannonata, Questo però è originale, dalla casa. Sono convinto che se modifichi questo spinge che la mala sorte. Aspetta un secondo, Antu. Eia. Ci sei, Antu? Dimmi. Ah, ci sei? Eia, dimmi. Eccola. Eia, Daniel, dimmi tutto. Daniel. Aspetta tu. Un secondo, un attimo di bianco. Eia, cappa. Davvero? Vabbè, poi avevi riparato il televisore, lo spinotto, avevi sistemato, sì? No, lui è sempre lì. Certo. In attesa. Non c'ho tempo ancora, lui. Non c'ho tempo. Capito? Mi faccio giusto così, due chiacchiere in radio. Quando c'ho 5 minuti di tempo mi voglio rilassare, non voglio pensare a nulla. Ho capito. Ho detto che non c'ho tempo, cioè sono giorni destra, sinistra, sta su e giù, sto facendo documenti, capito? E quando sto in radio ne approfitto per staccare, che non ho più voglia di far più nulla alla fine. Ah, beh, certo. Devo sistemare ancora alcune cose, ma sono lunghe da sistemare, porca miseria. Magari fate dimenticato, invece no. E va bene, va bene, cosa ci vuoi fare? Gap, gap. E tu cosa stai combinando? Nulla, niente di... niente di speciale. Sempre il solito tram-tram. Bella, tram, pullman. Metropolitana, riduttura. Più o meno, non ho più. Ah, poi sono sempre dimenticato di dirtelo. Hai fatto poi la domanda ai cantieri comunali? No, non ho saputo niente. Oh, forse un paio di mesi fa, non me lo ricordo neanche, l'ho fatta online, ma non ho saputo più la graduatoria. Tutto online adesso, comunque la lunedì siamo entrati alla bianca, tutti a tenere cocaina. Ehi, allora stiamo leggendo, a lunedì dicono, vedete lo casino, d'orra, troppo presto era. Allora, praticamente, infatti, come hai detto tu, troppo presto, e poi è un casino perché non si può, cioè, non ho parole, usa tanto, poi ritorniamo alla punta a capo, mi guarda, forse è peggio buio. Ci stanno usando come cavia. Allora, qua c'è scritto Sardegna, zona bianca, da lunedì primo marzo. Andiamo, andiamo. Chi è? Ma ci stanno usando come cavia, Lu, adesso controllano a noi. Zona bianca, vediamo il biscottino con lo zucchero e vediamo cosa succede. Se va bene si può continuare a fare, se va male tutti come prima. Infatti. E poi quelli che... bah. Allora, quelli che si vogliono divertire non ne frega niente, tanto. Sono quelli che stanno male e quelli che magari non escono, escono poco. A me non me la futti nulla, Giusto così, magari a farmi una passeggiata, qualche parte, mangiarmi qualcosa, ma niente di... niente di speciale. Infatti, mica cosa bella che ti puoi fare qualcosina in più, dai, però a livello di sanitario no, non va bene ancora, la verità si dica, no, zero. Lo so. Io lo so. Quello è loro. Anche perché siamo ancora bassi a livello di vaccinazioni, ci sono le varianti e tutte cose, non è da fare ancora. Beh, facciamo da zona bianca a zona rossa subito. Guarda, speriamo io, ma guarda, tempo una settimana, settimana, 15 giorni. E come mai tutto di nuovo in radio, dai. Ah, sei di quelli che riprendi poi, abbandoni, come mai? No, Lu, perché, allora, vero, ha sentato, perché, in poche parole, sta facendo questo lavoro, un amico mio, ho portato la scala da lui, e poi, ecco, quella pesante, diciamo, che si alza e si stacca, diventa tipo ponte, dai. Ed era lì, poi sempre con l'intento me la compro, vabbè, poi è successo quello che è successo e non ho avuto più tempo, lui. Poi sono deciso, ho detto vabbè, domani vado me la compro, mi ha preso la scala e sono rientrato. Sì, vabbè, non è che ci vuole chissà che cosa, no? Tipo un po' di legna e te la costruisci tu. Lo so, lui, però siccome... io quando ho fatto il soppalco non avevo pensato che... cioè già ho pensato alla scala, però mi sono fermato 30 centimetri prima dell'ingresso delle porte, capito? Quindi dovrei allungarlo e fare una scala o qualcosa per salirci su. Sono devo stare in queste scale in mezzo ai piedi e una rottura di scatole. Certo. Ma non c'è nessuno, Oh, c'è la bomba, lo c'era poco fa, poi mi sono assentato. E poi non lo so. Qua è sempre tutto acceso. Ehi, ehi, no, vabbè, mi sono riposato un po'. Ho preso il pisolino. Non ci vuole, mi sono avvicinato, ho preso un bustino, ma c'è anche la... la pomata, Voltaren, ma fa calizzare. Ho delle scosse, come se abbia fatto uno strappo, mi capito Daniele? Già lo so, lui, già lo so che anche io ne soffro, cervicale, dove la schiena, guarda, lasciamo perdere, che alle volte mi blocco del tutto. E poi non respiri. Ed è un macello. Oh, io. Ma no, non sei a casa tua, Lu, casa di tua madre? No, no, giù dalla 25 sono, perché il mare sta arrivando. No, anzi, ottimo segnale, non... Vabbè, sembrava come quello solito di casa tua, diciamo. Intanto un cacco. Sì, sto usando una boomerang, sto messo nel terrazzo. Già va bene, già rende lui, già rende. C'è anche quella ringo io, se la vuoi provare tu. No, io non mi smontano più nuda, Daniele, no. Guarda, la lascio così, non me la futti nuda, non... nulla, niente da fare. La volevo mettere sul petto, solo che poi... un casino, ho avuto paura con quello di su, mi stavo mezzo attaccando, insomma. Me ne passa della gara di duttura. La voglia di tutto. C'ho anche il palo, l'ho comprato nuovo, 4 metri, di quelli buoni. Ed è lì, non me la futti nuda. Dai, rimane così, va più che bene, mi ascolto quasi dappertutto. Via, break! Indietro! Buonasera a te, Daniele, buonasera a te, Luca! Ciao, ciao a tu! Oh, iaia, cazzo, non ho un po' di schienazzo! Ma non te ne dirò, che ti hanno già avuto abbastanza! Cazzo, un po' ci duri, mi, no, cazzo, cuta venna, li russi! Che è un bel fermo, ma che ti sei molto dorato. E molto ti crea mal di schiena, è normale. Ma questo qua non è quel mal di schiena che insomma. Questo qua è un mal di schiena che ho già avuto, mi è passato di nuovo, a me è ritornato. Sta prendendo anche le natiche. Dai, riprendete un attimino, come mangiamo un bel pezzo di cioccolato con le nocciole. Riprendi Daniele. Vabbè, bambolino! Ui, ciao Daniele, buonasera! La pennica ti stavi facendo? No, sono uscito un attimino! Cava, alla baraveda! Già va bene! Ehi, accappa! Sono uscito un attimino, adesso sono rientrato! Fra poi piglio l'aspirapolvere, aspiro in un vietretto, che non mi piace più! Le faccende facendose vi fa, guarda. Ehi, dopo di come aspirata, ai nocchi. Aspirata! A bolle. Ti pare un raio. Cazzo, col microfono ti stai zuffando. Ehi, perché ce l'ho un po' lontano, ce l'ho. Cava. Davvero. Cappa. Anda la grande, anda. Sono invece di tappo un pugno, beh. A tuo porco. Eia. Avanti. A voglia che ti copio, chi sei? Pietrino. Ah, buonasera Gioacchino. Dove muti a Porto Torres? Kappa. Ok. Ma come mai un po' di monte sei meno di segnale? Giochi! Io lo sento oscillante a tu. Vai, viene di segnale, radio, buh. Kappa, Giochi! Guarda, prova a vedere un po' di fare qualcosa, perché qua sei molto, molto, molto basso, Allora, poco qua mi sei uscito bene ieri a 9, ma poi dopo è abbassato torna. Sparito del tutto, Sì, è sparito, sì. Che bello! E va bene, avrà qualche problema magari, boh. Qualcosa al sistema, sì, chi lo sa. Io ti sento, pio pio ti sento, pio pio pio. Ma è qualcosa, l'anno passato ci è arrivato 9 e poi non ti ho più sentito. Ma è qualcosa perché non riesco a tirarti fuori. No, ti sento che stai dicendo qualcosa ma non ti sento più. Aumenta. Boh, chissà cosa va. Io lo sento bene, boh. Tu non lo senti? Arriva benissimo qua. Chi è? Avanti, chi sei? Chi è che ha parlato? Chi è altro? Gioacchino ha portato, ma io l'ho sentito un attimo, poi non l'ho sentito più. Ah, no, non è lui. Questo qua che ha parlato adesso, mi senti Antonio o un altro? Chi è? Chi è? Avanti. Chi sei? Sì, Gioacchino, va. Allora era Edo. Guarda, non arriva più. Tonio Cavazzacchi, Mi pagavo di Donino a me. Ah, vai, Testa di papassino. Donino, padivella! Allora, con la macchina, Di sicuro, tu, qualcuno che è in movimento, perché il segnale è oscillante. Sicuramente. Chi ti arriva più forte a te la veloce? Daniele o io? Luca? Tu arrivi più forte, Daniele è 9 qua. Ah, io sono 9.30. Quasi. Dai. Vabbè, abbiamo posizioni diverse. Oh, qua Daniele mi arriva una bomba, mi arriva. Vabbè, è una posizione completamente diversa. È interessante sentirci, poi se uno arriva a uno, arriva a due, la radio che conta, il segnale lascia il tempo che trova. Tonio, pedivella! E adesso ti è più forte. Adesso sì, e me pedivella, tutto bene. Tonì, maldicena forte ciò, maldicena forte. Adesso mi sono seduto, ma non riuscivo a calzarmi. Cosa? Cazzo, non posso calmo, sì, cazzo, non posso stare. Prendi burro le ciappette, capito? Io ho fatto la visita da Urigo. C'ho il CD, devo fare la cosa, lì al Conti l'ho fatta la visita. Mi ha controllato e devo fare la fisioterapia, non mi hanno mai chiamato. No, non l'ho fatta. Vabbè, prima voglio sapere quanto mi costa i soldi. Vabbè. Si può pure fare, non è un problema, cazzo buio tutta cuscia. Un attimo, Tony. Ci siete? Bomboli. Lugarie. E io sono in bagno. Tu eri con TH piccolino, eri? Ciao, sto comparando pure io su a... a buttarci la mondezza. Gava. Vai a fare la mutazione sempre, a tu. E la voglia, c'è una bomba, sì. Meglio così, gava. C'è qualcuno sotto che sta chiamando, chi è che chiama? Non lo so. Io non sento nessuno, tu. Zero. Kappa! Chi sei tu, Tony? Non riesco a tirarti fuori, io no. Invece che nella mia zona sei negativo proprio, Luca già ti tirava fuori. E avanti adesso, avanti. Ti ascolto, Santiago 5 ti ascolto. La radio già è buona, già tu. Capo, dove siamo? Porto Torres. 1, 2, 3, prova. Quanto sono? Scusa. Meglio di già va bene, dai. Il problema è che sicuramente sei in zona negativa. Io non riesco a tirare. Molte volte non riesco a tirarti fuori. Daniele è meno di me, capito? No, qui non arriva per niente, Anto. Non lo sento io. Ma perché ne sopra modulato? A te faccio bianco, arrivo subito. Kappa, dai. Daniele è proprio stato negativo perché anche se è una energy come la tua, ma in un punto proprio negativo. Non so se lui sentì, non so se tu senti a lui. Avanti! Se pio pio si è abbassato Santiago 2 e non riesco a tirarne, non riesco a tirare i bidi, cioè non riesco a tirarti fuori. Cappa dai, appena che alzo l'antenna andrà un po' meglio, perché segnali così bassi, se sei in una certa zona non riesco a tirarli fuori, capito? Avanti, chi è? Avanti! Avanti Tony! Ti sento Santiago 2, ti sento, mi senti tu? Cappa dai! In che zona sei? Dove sei, Porto Torres, confermi! Capo, c'è un bel basso, sì. Cappa. Non riesco a tirarti fuori, capo, c'ho qualche ostacolo io. Non è possibile. Io già, magari tu mi senti bene lì, anche di radio e tutto, però io i segnali troppo bassi non riesco a tirarli fuori perché sicuramente c'è una copertura qua. Buonasera, buon pomeriggio. Antonio sono, sei Santiago 7, Radio 5. Sei Santiago 7, dai, da che zona stai modulando? Cappa, ma non hai il posto per metterti un'antenna? Cappa, e ti metti buono un'antenna che non sia molto pesante. Puoi mettere, capito? Zona Corso Vico. Cappa, bene mi senti tu lì? Cappa. Io ti consiglio, come se vuoi mettere un'antenna piccola che renda, ti consiglio la boomerang, quella grande. Cappa, metti l'antenna. La fai a uno di stazionari e poi va bene. Ma non lo so, perché ne sentiamo pochi di Alghero. Porto Torres si sente di più a 12. C'è il canale 12, però magari tu non ci arrivi perché sei in questioni precarie. Cappa, ce l'hai anche in macchina, vero? Già va bene, no? Cappa. Se metti l'antenna grande pure qua già spari bene, via Principessa Yolanda, voglia che... dove mi hai detto? Cappa, io già sento tutti, c'ho qualcosa molto di più di un portatile. Io non l'ho più sentito. No, la verità, ti giuro, non l'ho più sentito, ma penso che già sia a posto. Cappa, dai, ci sentiamo. Ciao, ci vediamo alle prossime. Ciao. Passaggio a 9 mi hai fatto, mia. Hola. Avanti! Ciao tu, me lo dai un controllo radio? Una bomba, sì. Va bene. Sei a fondo scala in questo baracchino. Addirittura, così forte sto uscendo, aspetta che abbasso, vai. Così mi ascolti bene? Sì, se no sono di B, vabbè, questo arriva fino a 9.30, eh. 9.30 sto arrivando. Cappa, vabbè, questo qua è... niente così, era l'87. Io bene, quanto ti sto arrivando? Sì, sì, ti ascolto benissimo. E quanto sono il segnale? 1.30. Fa passaggio. 1.3 prova. 9.30, radio 5. Già va bene, lo sei col baracchino. Papa, col baracchino sto uscendo. Aspetta che l'abbasso un po' di microfono, se no magari disturbo. Così va bene, eh? Ah, scusa, se avete regolato tutto, cosa deve disturbare? No, ma non disturba adesso. Non ho quel problema. Vabbè, ma sto provando. Se non lo fa, se posso far fare. Vabbè, anche però devo provare. Cappa, ma l'importante è che sei contento, dai, che non lo fa più. Vabbè, certo, quello no. Lo devo provare a vedere. Cappa. Già va bene. L'ho schioppettata, Io sono con la 97 e l'MB più 4. Allora, non che andava? Andava, non lo fa più. No, adesso provo da altri canali a vedere. Provo a vedere. Vai, che quando è regolato verso di binuda. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prova radio 1, 2, 3. Ebbene, cosa fate? No, sto provando se disturba, ma non disturba. Adesso voglio provare cosa. Se... provo sugli altri canali, io anche un attimo. Prova, ma non riparti nulla. Hola. Allora, tu. Allora, prova radio 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, 4. Dimmi. 6, 7, 8, 9, 10. Così cambio. Va benissimo. Daniel, dimmi. Dai, io chiudo, che sto uscendo, dai. Ci sentiamo tra un po'. Saluto di circolare a tutti. Scusate l'intrusione. Paga intrusione, non ti preoccupare. Ebbene, tutto a posto? Vabbè, tutto a posto. Tutto a posto. Capito, tutto a posto. Quanto segnale adesso tu? E non ve ne più i nomi. 87, cosa pretendi? Posso aumentare ancora, Cappa, va che ti ha aiutato, ti ha aiutato bene, perché è capace, non ti preoccupare. Adesso non disturba più, almeno risolto il problema. Cappa, è capace o fra? Tranquillo che ti ha aiutato, è capace, perché ci ha aperto un bemmi. Cava. Eia, uia. Siccome te sarà non ve la fate, devo stendere un paio di cose, devo stendere. Cava. Va. Ecco un attimo qua che vado a farlo, se no sa non ci arriva, è un casino. Va bene. Dopo ti chiamo un attimino. Andare. Via. E vabbè, tanto sto finendo di fare cosette qua a casa, che c'avevo delle cosette da rifinirmi, tutto lì, dai. Sto fanno un abbasso al limite dopo. Via, dai, va a fare questa roba e poi faccio l'abbasso. Ora. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Bombolino, un mortorio. Aspetta un attimo. Ehi, avanti, Marco. A me, no, credo avessi chiamato qualcuno in fondo. E beh, Anto, oggi un mucciuccio, come si dice? Ehi, qualcosa c'è che non va. Poco fa sto parlando, è entrato qualcuno e via. Non lo so, Marco. Con mio dietro la pizza, che ne so, lasciamo vedere. Sono le 7:21 e io ho finito di mangiare adesso e adesso mi faccio il caffè. Purtroppo non sono uscito perché la cervicale oggi mi sta dando mattana. Va vai, dura la cervicale. Lasciamo vedere i nonchi. Sono con 87, va bene. Caspita, se va bene. Vabbè, qua è cristalli liquidi, ma sei fondo scala come al solito, tanto è inutile. E qua è più che fondo scala non può essere, di più non va. No, capogiri un po' mi fa, capito? A seconda di come muovi il collo, della posizione in cui magari si è addormentato o ti muovi. Capo, sono dolori che ci sono. Riesci a vedere? Amatele come il gioaghiccio e l'audineggio. Capo, ecco un attimino che sto telefonando la pizza. Fai, fai, intanto io qua sto andando avanti e indietro, che devo fare? Sto sempre facendo roba qua. Avanti, già avanti. Come sono? Le rispettano gli orari o sono un po' ritardatari? Se ti dicono un'ora, te la portano a quell'ora? 15-20 minuti, no. A voglia. Se hai visto, da lunedì la Sardegna ritorna a zona bianca. Però sempre mascherine, divieto di assembramento. Ma dico una cosa, assembramento non siamo noi, perché viviamo qua. Il problema sono la gente che viene da fuori. I nigeriani, mamma mia, quelli se ne fregano dalle regole. Quelli sono cattivi, non sono come i cosi, come si chiama? Tu compra. Ma non mi viene il. No, no, non è quello il problema. Il problema è la gente che viene proprio da fuori, le barche, le navi, quelli non ci devono essere.